5A. Ascolta e rispondi. Puoi ripetere? Sì, certo. Puoi parlare lentamente? Sì, certo. Puoi aspettare? Sì, certo. Puoi restare? Sì, certo. Puoi chiudere la finestra? Sì, certo. Puoi fotocopiare il libro? Sì, certo.